Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, che arriva oggi alla puntata numero 400. Un bel traguardo, non vi pare? Premiate la nostra perseveranza rimanendo all'ascolto di questa puntata in cui si parlerà di mele dolci, spettacoli amari, fotografi temerari, senatori codardi, film deludenti e proteste vincenti. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Scimmie col rossetto e con la minigonna che pedalano a bordo di una bicicletta, tigri in gabbia che a uno schioccar di frusta saltano in un cerchio di fuoco, orsi che pattinano sul ghiaccio, giraffe terrorizzate in fuga nel traffico di Imola, animali ridotti alla fame o puniti con pungoli elettrici e bastonate dal loro domatore per ottenere obbedienza. Ippopotami, elefanti e dromedari detenuti al freddo in mezzo alla neve senza alcun riscaldamento, mani amputate per azzannamento. Sono questi solo alcuni degli effetti collaterali dei circhi con animali, effetti che fanno rivoltare chi è informato e sa che quanto diciamo è accaduto e accade davvero, perché abbiamo preso queste informazioni da due dossier ottimamente documentati, uno della LAV datato 2015 e uno dell'EMPA datato 2007. E oggi parliamo di circhi perché il 20 settembre scorso il Senato della Repubblica Italiana ha approvato un disegno di legge, il 2287 bis, che intende mettere ordine nella disciplina del codice dello spettacolo, in particolare riguarda le attività circensi e gli spettacoli viaggianti. Nel mondo animalista c'era molta attesa intorno a questo disegno di legge per la controversa questione dell'utilizzo degli animali, dato che, come tutti sanno, i circhi, non tutti, ma moltissimi, utilizzano animali ammaestrati, selvatici e non. Nella formulazione che era scaturita in commissione si parlava di graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali e si prevedevano incentivi a quegli operatori che avessero trasformato le loro attività circensi rinunciando ai numeri con gli animali. Ma nella seduta del 20 settembre è stato approvato in extremis un emendamento proposto dalla senatrice Rosa Maria Di Giorgi del PD, nel cui testo si è passati dalla graduale eliminazione al graduale o progressivo superamento. Questo emendamento è passato con 147 voti a favore, 47 contrari e 23 astenuti. Condanniamo il passo indietro del ministro della Cultura Franceschini, che dopo avere difeso strenuamente il suo disegno di legge delega, appena qualche settimana fa in Commissione Cultura, ha permesso questa modifica. Questo è il commento a caldo di LAV, dell'associazione LAV, che aveva sostenuto la proposta iniziale e più coraggiosa del ministro della Cultura Dario Franceschini e che aveva intitolato la sua campagna Un bel passo avanti. L'EMPA ha parlato di un colpo di spugna. Avevamo l'occasione di fare una piccola rivoluzione, una grande scelta di civiltà, mettendo al bando lo sfruttamento di animali nei circhi, ha commentato così la presidente nazionale di EMPA, Carla Rocchi. Manca insomma in Italia il coraggio di sostenere una vera riforma che vada nella direzione di uno spettacolo etico, uno spettacolo senza animali. Un atto dovuto dal momento che oltre 50 paesi al mondo, tra i quali metà di quelli dell'Unione Europea, hanno già in qualche modo messo al bando a vari livelli l'utilizzo degli animali negli spettacoli, come d'altra parte auspica la stragrande maggioranza dei cittadini assieme alla Federazione Nazionale dei Veterinari. Secondo Eurispes, infatti, il 71% dei cittadini italiani non vuole più gli animali nei circhi e molte istituzioni locali hanno varato ordinanze che impongono ai circhi l'osservazione di regole molto stringenti sulla sicurezza e sulla gestione degli animali. Naturalmente queste regole stanno rendendo la vita dei circhi con animali un po' più difficile, per non dire poi delle proteste inscenate dal movimento animalista davanti ai circhi, con semplici banchetti informativi o con più sofisticati flash mob che da anni denunciano le modalità cruente con cui gli animali vengono addestrate, tutte informazioni che non possono più venire negate o occultate perché in rete si trovano con un semplice click. Secondo la SIAE, nel 2013 il circo per la prima volta è sceso sotto il milione di biglietti staccati, 983.000 ingressi, per un giro d'affari complessivo pari a 9,8 milioni di euro. Mentre nel 2006 gli ingressi erano stati oltre 1.400.000 e il volume d'affari aveva superato i 23 milioni di euro. I circensi da parte loro affermano di essere al centro di una tenaglia. Da un lato c'è la crisi e dall'altro c'è il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, che via via riduce i fondi a disposizione. Nel 2010, secondo la LAV, il Fondo Unico per lo Spettacolo ha erogato più di 5 milioni di euro ai circhi, mentre secondo l'ente circhi i milioni erogati sono stati solo 3,5, sempre troppi se si pensa che vengono spesi per acquistare e addestrare animali proibiti anche dal CITES. Secondo il parere della commissione scientifica CITES, infatti, fin dal 2006 i primati, gli orsi, le tigri, i leoni, le foche, gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami, le giraffe, i rapaci e molti altri animali non dovrebbero più comparire in un circo italiano. Le linee guida del CITES però non sono mai state inserite nella legge. Si stima, perché dati ufficiali non ce ne sono, che in Italia siano tutt'oggi tenuti in cattività nei circhi circa 2.000 animali. Da parte nostra concordiamo con la LAV che si sta battendo affinché chi tiene animali venga almeno escluso dalla distribuzione dei fondi pubblici. È sensato ritenere infatti che i tendoni dei circhi, se non fossero sorretti dalle nostre tasse, crollerebbero seduta stante. Oltretutto ormai si sta affermando una nuova generazione di circensi che rifiutano l'utilizzo di animali e che puntano sulla giocoleria e sulle acrobazie umane. Tra i più conosciuti c'è il Cirque du Soleil, che però rappresenta solo la punta di un iceberg, sotto la quale esiste una vivace galassia di piccole compagnie girovaghe che possiamo ammirare nei festival nazionali e internazionali. Roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. Ispirata all'ambiente circense è anche la ricetta della settimana a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. There's always one rainy day, oh baby, to wash your tears away. In questa puntata siamo tornati a parlare di circo. Già vi ho raccontato come fare il popcorn con crema al mu. Andate a ripescare la ricetta nel podcast di Restiamo Animali. Ma il popcorn non è la sola icona alimentare legata al circo, pensateci bene. Chiudete gli occhi e immergetevi in quell'atmosfera fatta di artisti, musica, luci e ad un certo punto ecco che vi apparirà davanti agli occhi un bel vassoio colmo di rosse e lucide mele caramellate, pronte ad essere addentate appese al loro stecco. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 mele rosse, un cucchiaio di malto di orzo, 400 g di zucchero di canna chiaro, un baccello di vaniglia, un pizzico di cannella in polvere, 100 ml di acqua di cottura delle barbe rosse. Dopo aver ben lavato e asciugato le mele, togliete il picciolo e sostituitelo con uno stecco da spiedino spesso. A parte unite l'acqua delle barbe rosse e lo zucchero di canna. Mettete a fuoco lento e quando lo zucchero si sarà ben sciolto unite il malto d'orzo. Lasciate sul fuoco fino a raggiungere i 100 gradi. Quindi unite la cannella e la vaniglia e lasciate cuocere fino a raggiungere i 150 gradi. Se non disponete dell'apposito termometro, potete immergere uno stecco da spiedino nel caramello e subito immergerlo in un bicchiere di acqua fresca. Quando lo zucchero si solidifica e scricchiola fra le dita, il caramello sarà pronto. Feed on, honey, tell me what's gone wrong, and I'll do my best, I'll try. A questo punto togliete dal fuoco e immergete le mele nel caramello praticando una rotazione. Quindi fate scolare da quello in eccesso e lasciate raffreddare sopra una griglia. Va benissimo quella del forno, avendo l'accortezza di mettere sotto una placca con un foglio di carta forno. Lasciate raffreddare bene, quindi servite. Alla brutalità e disprezzo. La notte del 26 settembre è la notte dedicata al loro dolore. È la notte della veglia silenziosa e pacifica davanti ai macelli di tutto il mondo, da Berlino a Melbourne, da Toronto a Charleroi, da New York a Bristol, fino a Milano. È stata, quella di quest'anno, la seconda notte in piedi davanti ai macelli, un evento organizzato dall'associazione 269 Life Liberation Animal, un'associazione francese che l'anno scorso ha raccolto più di 400 persone in 33 città di tutto il mondo e che quest'anno ha avuto l'adesione di 2000 attivisti in 70 città di diversi paesi. Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Italia, Spagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Cipro, Germania e Svezia. Anche in Italia c'è stato un presidio, è stato presidiato il mattatoio Pessina di Boffalora sopra Ticino a Milano dalle ore 17 di martedì 26 settembre fino alle ore 5 di mercoledì 27. Andiamo negli Stati Uniti per una vicenda che accade in questi giorni al Museo Guggenheim di New York, uno dei templi dell'arte moderna e contemporanea. Il museo ha deciso di rimuovere tre opere d'arte da una mostra intitolata Art and China After 1989, Theater of the World, cioè Teatro del Mondo, l'arte e la Cina dopo il 1989. Una mostra che si aprirà il 6 ottobre e nella quale verranno esposte 150 opere d'arte sperimentale di 70 artisti concettuali cinesi. Il museo non mostrerà due video che sono stati girati utilizzando animali vivi e una installazione che include insetti e lucertole dal vivo. Gli organizzatori hanno motivato questa scelta con la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale, dei visitatori e degli artisti partecipanti. Il Guggenheim, infatti, è stato fatto oggetto di vivaci proteste nel momento in cui è partita la campagna di comunicazione sulla mostra. Gruppi di animalisti e anche celebrità del mondo dello spettacolo hanno inviato i loro messaggi, aperto petizioni chiedendo di ritirare queste opere. Una petizione che condannava la mostra aveva raccolto più di 550.000 firme quando il Guggenheim ha deciso di ritirare le opere. L'accusa era di praticare crudeltà contro gli animali in nome dell'arte. Uno dei video è intitolato Cani che non possono toccarsi a vicenda. Si tratta della registrazione video di una performance live del 2003 in cui due paia di pitbull si affrontano uno davanti all'altro e corrono su dei tapis roulant cercando di raggiungersi, ma sono imbracati in modo da non poter mai entrare in contatto. Nel corso del video, creato dagli artisti Sun Yuan e Peng Yu, la cui intenzione era quella di stimolare una riflessione sul potere, i cani si sfiniscono inutilmente fino a sbavare sempre di più. Il secondo video, realizzato nel 1994 da Xu Bing, ha come protagonisti un cinghiale e delle scrofe che hanno addosso stampate alcune parole senza senso in alfabeto cinese e romano, a rappresentare il contrasto tra sistemi di scrittura complessi e la natura selvaggia degli animali. In un recinto poi avrebbe dovuto esserci un'installazione composta da centinaia di rettili e di insetti che si divoravano a vicenda durante il corso della performance. Anche questa installazione è stata annullata. Off a teacup full of cherries. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far. Diamond in a haze forever. Pray for pavement to get back together. Nobody knows where you are, little. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend. Sembra, come del resto la società intera, non riuscire a prendere coscienza della questione dello sfruttamento degli altri animali, anche a fini artistici, noi vi proponiamo una riflessione sul contributo che può dare, che sa dare alla lotta per l'emancipazione degli altri animali, la fotografia. Il servizio è della nostra Roberta Marino. Sono in compagnia di Benedetta Piazzesi e di Stefano Belacchi. È appena terminata la presentazione del libro Un incontro mancato. E volevo chiedere a entrambi perché è stato necessario aggiungere testi e immagini di una mostra fotografica che già esisteva e si è dovuto ricorrere anche a un libro con dei testi. La prima istanza è stata appunto mettere per iscritto, perché sentiamo l'esigenza di mostrare agli altri quello che accade dentro agli allevamenti e riflettere un po' anche in maniera autocritica su questa esigenza di mostrare e come questa tra le altre cose venga a rientrare in un circuito di informazione, di mezzi di comunicazione di massa. Ormai degli allevamenti intensivi abbiamo documentato quasi tutto e quindi un po' il rischio a volte è di rincorrere il sistema mass mediatico che ha bisogno di dare in pasto al pubblico nuove immagini scandalose, anche se ormai il loro potere meramente informativo, diciamo, si è esaurito. Un libro come questo, che però è fatto di testi e di immagini al medesimo tempo, può contribuire a far passare dall'essere puramente spettatori passivi e anche un po' semplicemente compassionevoli di quello al quale si assiste ad una vera e propria azione politica reale. È un tema classico della critica fotografica, cioè non ci sono immagini, diciamo, neutre, no? che parlano per sé. Ogni immagine viene significata da una narrazione che le si accompagna. Fare investigazioni ha un valore e anche continuare, insomma, a riflettere su come possiamo influenzare lo sguardo che abbiamo nei confronti dei soggetti animali per anche magari progressivamente farlo spostare da uno sguardo paternalistico che li vede come meramente vittime che aspettano, insomma, il nostro intervento, vederne sempre di più invece la loro rabbia anche, ad esempio un elemento proprio estetico che Stefano nel suo stile fotografico accentua, a vederne la rabbia ci ricorda che gli animali sono soggetti attivi della loro resistenza dentro questo sistema di sfruttamento e nei confronti del quale quindi noi possiamo condurre una lotta di solidarietà. Normalmente immagini come queste, filmati come questi, sono accompagnati invece da testi come diventa vegano, salvalo. Allora, come si può superare questo che voi avete chiamato lutto edulcorato del io ti salverò, quando in realtà comunque concretamente quell'animale fisicamente non viene salvato? È tanto dell'animalismo di oggi, ma non solo dell'animalismo, in realtà di tanti movimenti mass mediatici, si basa sull'ottimismo, cioè sulla possibilità di poter dire che senza fare troppa fatica si possa avere un cambiamento radicale. mi sembra corretto dire che il soggetto della foto è morto e che non lo possiamo più salvare, perché questo ci restituisce la drammaticità del sistema in cui questo soggetto è inserito e quindi ci dovrebbe spronare a fare un qualcosina di più del minimo, ovvero del sottoscrivere una petizione online o fare diventare vegan un giorno alla settimana o anche tutti i giorni, insomma. Per me la necessità comunicativa è questa. Un critico fotografico che si chiama Roland Barthes, che parla della caratteristica della fotografia di questo tempo intermedio tra il passato e il futuro, no? Lui parla della la fotografia dei condannati a morte, mm-hmm. Dice: quando guardiamo la fotografia di un condannato a morte tremiamo come se quella persona dovesse ancora morire, e quindi fotografare proprio invece animali vivi significa al tempo stesso vedere questo schiacciamento tra l'ineluttabilità di un evento passato e però anche la inquietudine di qualcosa che sta per accadere. Siamo in chiusura, vi ringraziano per l'ascolto Stefano Belacchi, Benedetta Piazzesi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e chi vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, cioè Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 401 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.